Per 2 mesi ho consumato 1000 rosigaro, ma stiamo scherzando. Scappa. Voglio vedere cosa fanno loro, se fanno qualcuno a fare il conteggio, cosa ne gioco io? Cioè io no, cioè allora la telefonata ci hanno detto che veniva qualcuno, ci hanno detto che ci mandavano email, ancora non si vede nessuno. Ma sì, vabbè, dai, ritorno al microfono io e poi vi lascio il vostro qua show. A parte che siete ancora, siamo ancora sopra le feste, quindi è logico che non mandano nessuno. Però io ti consiglio di andare di persona. Va bene, dai, Luca, riprendi, poi già ci farei sapere, dai. Ciao, sono in Codex, facciamo un documento. È un casino, cazzo, è un casino. Ma ah, qua ci dico un'altra cosa, ma gli è arrivata la sua bolletta di acqua. Che stavo pagando, non la stavo pagando, facevo pagando e come. Infatti ho parlato anche con Claudio, vabbè, 600 euro. Salgo su, e cioè voi siete dal 2019 sta a pagare acqua. Scusi, gli ho detto, guardi qua. L'acqua sto pagando ratizzata, attenzione. Proprio ci pagarne una, poi ha detto pagando a 5 a 5, 4 a 4, 5 a 5. E infatti sono andato lì, tutto azzerato, tutto a posto. E ce n'era una che non era mai arrivata, che l'ho anche pagata, mi sono fatto fare il bollettino e gliel'ho pagata. Anche con l'acqua, dovete stare ben attenti. Chi ha l'acqua a Manoa, chi ha il pozzo è più tranquillo. Scappa, e no che non è arrivata una bolletta. Credimi tu, non è arrivata la bolletta di Albanoa, cioè mamma roba da macchi. Tanto tu da quanto ci sei? 3 mesi mi sembra in occhio Trento. Cosa attacchi tu alla corrente elettrica? A parte, vabbè, il televisore, lo sono da bagno, cosa attacchi? Sto da bagno, la radio attaccata e basta. Condizionatore ha gicchicciato una cosa, manco fare yo-yo. Condizionatore, quello non si usa perché io sono un salasso, uso la stufa e boh, non attacco altro niente io alla corrente. Pare che c'è un errore, a meno che se c'era qualche altro prima, a nome di chi la luce, a te, a nome tuo? Nome di Sara. Ah, che c'è qualche errore, di ammazzarsi. Ma stai scherzando, un monolocale, a dove vuoi andare? Oh, questa scarica, boh. No, non lo so la verità. Capo. Cioè, ma siamo buffonenti, siamo. Cioè, un cavolo di casa piccola, monolocale, ma dove abbiamo una pizzeria in occhio dentro? Ma cosa cazzo? C'è un errore, ma è un errore grandissimo. Anche con l'acqua lo stesso, ci arrivano bollette. Sì, vabbè, l'acqua si consuma di più. Perché alla fine in bagno, sciacquone, sa, poi ti fa luce tutti i giorni, penso che lavati ci attacchi spesso, l'acqua sì, consumo c'è, però questa volta a 600 lì, cioè, poi siete dal 2019 e non ne pagate, ma andate a cagare, poi sono andato lì, è stata molto gentile la tipa, molto, ma proprio mi ha accolto davvero una persona in gamba. Mi ha stampato tutti i bollettini che ci sono da pagare, invece di pagare in banca adesso di pagare le poste, che mi costa di meno, perché in banca mi costava 3,50 ogni volta che pagavo il bollettino. E poi mi ha fatto tutte le fotocopie delle bollette pagate al tabacchino, attenzione. E niente, adesso ho queste bollette che mi ha stampato, che è sempre quella ratizzata, no? E mi sa che sono intorno ai 370 euro, guarda, gliela pago tutta una volta e ho finito. Cappa. Adesso vediamo se domani cosa annesci. Da chi ci gatti gatti. Cioè, ma stiamo scherzando, io spero che la zerino, cioè, o fanno qualcosa. Perché se no non andiamo d'accordo qua, no? Beh certo, ma stai scherzando, ma fai un cazzettone. C'è il nome di Sara, ma poi a parte avete avuto altre case prima? Una è lì, una è via Largo Monaco e Cappuccina. Sì, tutto a posto la bolletta, anche io avete avuto problemi. Ma cosa cazzo problemi, sempre pagate le cose. Allora io faccio una cagata. Allora, cioè, la disdetta, è stata fatta la disdetta, dice, no? Sì. Lì abbiamo Largo Monaco e Cappuccina, però se non se ne comprende ma cosa sia successo. Boh, ma che errore c'è di sicuro. Come c'è? Oh, yeah. Oh, come questo? Sì, ma... Cioè, non è giusto fare queste cose, però, sono dei grandissimi delinquenti. Però ci prova, c'è cioè, la mamma una volta non è infinocchiata a cambiare la luce. Tramite telefono mi ha detto no, non risponde a nessuno, ma c'è anche vuoi la ciambata, ne pare 20 bocchi. Gesù Cristo mio. Perché la infinocchiano lì, sta sopra il telefono. Gli ho detto devo rispondere, basta, se ne vuole cambiare luce, infatti chiama un tipo da poco. Siamo del bomba, bimbo, gli ho detto guarda, chiami dopo le feste. E la picciolato. La figuria energia mi pare che era, boh. Facciamo male adesso è Illumia. Zappa. È a casino, boh. Adesso vediamo anche questa cosa. Cioè, ma non si può, sono veramente dei ladri, sono. Tanto perché se così te la stacca, no? Ah, sono cavoli loro, sono. Ah, non devi educare nulla ai nonni. No, staccano da su direttamente, adesso i contattori sono quelli nuovi e sono GSM, staccano da là. Non va bene però così. Comunque staccano da là, stai attento. Vai subito, vada lei, boh, se tu non puoi andare, vabbè, deve andare lì per forza. Scappa, adesso va domani, ma dice che gli hanno un pochettino bloccata, gliel'hanno, perché c'è stata questa cosa. Che gli hanno bloccata? Penso di non pagarla, che ci pensavano loro, non so qualcosa, però bisogna andare su e parlarne a voce e diglielo questa storia. È uno responsabile, per forza, tanto. Non è possibile, mattino sei milagro di là, che cazzo, cos'è? No, questi qua vogliono denunciarti. Ma non mi pare a me il contatore che ha già consumato chi si chiede a fatto. Oh, a meno che non sia infurata di Mao Mao, ma non penso. Ma tu dove ce l'avete il contatore? Sì, mio, che ti cerco una persona, se devo mandare i vieni, però ti do il nome di una persona e parli con lui direttamente, al direttore. Aspetta che lo devo cercare, se lo vedi bene. Che? Ma ce l'hai in casa il contattore, o fuori? Fuori, all'ingresso del palazzo. Ascolo, prenditi carta e penna, si chiama Lisca Antonio. Tu dici io voglio parlare con Lisca Antonio, il direttore. Beh, un attimo che me lo segno. Ma tu, allora, se ce l'hai giù, allora sono agganciati loro. Controlla i caffi, se sono, ce ne sono due solo, o ce ne sono più di due di caffi. Magari nel mentre voi non ci siete, loro si agganciano, occhio. Ma non mi sembra, perché abbiamo fatto fare le prove e non... No. Ma allora, se c'hai due cavi solo che entrano nel contattore, ok, va bene. Ma se sono più di due, allora c'è qualcuno agganciato. E cazzo, cos'è il tuo buffare? Ecco qua, Lisca Antonio. Basta, si chiama Lisca Antonio, è il direttore dell'energia, quello che gestisce tutto. Dice, guarda, io mi hanno dato il suo contatto, il suo nome, mi hanno detto parlare con lei perché una persona ha avuto lo stesso mio problema e niente, come mi può aiutare? E gli spieghi la roba, la tua cosa, capito? Ok, adesso glielo dico, domani saranno aperti, penso. Ah, io penso che ci domani sta aperto. Va bene, faccio sapere, comunque a me mi ha risolto il problema. Quindi niente, te lo consiglio, ecco. Sì, ma infatti adesso mi ha mandato anche su WhatsApp il suo adesso per almeno sali lei, sale e glielo dice, chiede se c'è questo Lisca Antonio per risolvere il problema. No, tu devi andare diretto, non entra, tanto ti chiedono, ti fanno prendere il numerino così, ti chiederanno anche se è un appuntamento, quindi tu dici guardi dovrei parlare con gli scantoni, al direttore, sono senza appuntamento, però ho un problema, dovrei parlare con lui, ma mi hanno mandato a parlare con lui, tu dici. Ok, adesso glielo, già sta ascoltando, adesso si va domani e via, cavolo di noi no, che speriamo bene, guarda, me ne auguro perché cavolo, come si fa a pagare tutta quella luce, cioè, non è che noi abbiamo i soldi di chissà che cosa. Io lo so, dire a me, io purtroppo sono stato in giro anche a pagarle, perché la prima, ti ripeto, l'ho pagata 2000 euro pensando che era il conguaglio, dopo 6 mesi mi hanno mandato 3800 euro e le ho pagate, dopo altri 6 mesi mi hanno mandato altri 2200 euro e le ho pagate, dopodiché mi hanno mandato la bolletta, ti ripeto, di 5900 euro e ho detto basta, da oggi in poi non pago più niente, perché voglio dire, non è che poi loro ti chiedono e paghino, alla fine mi hanno fottuto tre volte, alla fine ho cambiato gestore, sono andato lì all'Enel e gli ho spiegato il motivo, il mio problema e siamo riusciti a uscirne. Io, diciamo la verità, abitando in campagna non pago l'acqua, però pago l'elettricità, perché l'acqua io la tiro dal pozzo, va alla cisterna va in autoclave e così via. Però quello che consumo io pago al mese circa 130 euro al mese, quindi 130, 120, a volte un pochino di più, dipende, ma siamo in quattro, quindi fate il conto, circa in due mesi 2,60 pago, 2,60, posso arrivare anche con il condizionatore e come si chiama, il boiler attaccato a una cifra anche intorno alle 2,80, ma siamo in quattro, ti ripeto, quindi la spesa diciamo che è quella. Ho risparmiato tantissimo togliendo lo scaldabagno e mettendo il gas, costa di meno e fa la stessa cosa lo scaldabagno, con lo scaldino, capito? Quindi potrei pagare anche di meno, dipende, quando mi finisce la compra devo usare lo scaldabagno, quindi la cifra è quella, capito? Dalle 2,40 alle 2, massimo 2,80. Cappa, ma da 1000 e passa, ve ne basta la differenza. Pulati con 1000 euro, cioè, e cos'è? Ma con attività commerciale consuma così tanto. Vabbè, comunque sia, vedi un po', io più di tanto non ti posso aiutare, ti ho detto chi cercare, lui mi ha risolto il problema, quindi fai, vai al più presto, soprattutto parlane di persona, non stare lì a mandare email o messaggi a quelle varie, perché tanto ti snobbano, non ne frega niente, quando si va di persona è già un'altra cosa, capito? Va bene ragazzi, dai, divertitevela, ciao Antonio, ciao Luca, ciao gli eventi da Soltoni, e niente di che, ciao. Ciao figlio, sto guardando la partita. Meglia, ciao padre, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, grazie, ti grazie tanto. Adesso domani si va su, si cerca di questo signore qua e si parla. E come ti vediamo una paga che ci goce? Oh, perché c'è già tutti questi soldi? Vedi, grazie, che è importante risolvere. Ciao, ciao. Guarda, che partita c'è che non sto neanche guardando. Milan e Juventus, la Juve sta vincendo a Milano 1-0. Va bene. Canale nazionale? No, c'è Sky. Allora, dai. Non ce l'ho, non me frega. D'accordo, ciao. Sì, Matteo, ne ho, diciamo, secondo me c'è l'aria col telefonino. Giusto per giocare questa partita, se no l'ho già dato la ricetta dall'anno scorso io. Andare, va bene, dai, ciao, ciao. Ciao, ti. La batta di peggio che avremo, buono Sky, voi ce l'abbiamo in culo. Sì. Adesso vado in bagaglio, però c'è quello là, mi pare, quello a 29 euro, come si chiama, quello già non costa molto. 29 euro, pagavo 70 euro lo Sky, c'avevo tutto, film, tutto, là la zeppa, anche da zona, tutto, poi c'era per andare, l'ho tolto, basta, boh, manca, guarda. bella nel telefonino? No, c'è connessa, io ce l'ho sulla TV. Ah, ho capito. Dal telefonino direttamente la TV. Sì, io mi connettevo col Gromecast. Ce l'avevo nel telefonino e mi connettevo con Gromecast. Tu immaginati che dal salone con lo wifi me la sto guardando qua, c'è la radio. Con il televisore più piccolo, il segnale arriva lo stesso. Sì, sì, sì. No, che se sono come loro, ma la volante più grande, già mi cambiano la DJ perché ho un 29 pollici, 28 pollici. Lo so. Comunque già io ce l'ho avuto per tanto tempo, già andava. Insomma, 70 euro al mese, proprio a casa di guadagnati, no? Il mio bagaglio sono tu. E poi ci fa per imbarazzarmi, lascia perdere. Allora, qui c'è. C'ho un programma, io, si chiama... Come cazzo si chiama, aspetta. Si chiama TV Tap Pro, vediamo cosa la fa vedere anche a me. Allora, Sky Calcio, vediamo un po', Cino, Class, vediamo un po' se più giù, Sport, no, è lì, solo che non la fa vedere la Juventus, la fa vedere qua, si blocca ogni tanto, però la fa vedere. Ehi, va bene, va bene. Mi piace, c'è una pubblicità, vabbè, partita uscì, vabbè, un po' più di occasione ha avuto la Juve, però mi lancia pareggio, troppo sarebbe. Vabbè, non è che stia andando bene, bene, bene, ma cos'è terza in classifica? La Juve è terza, c'è il Vigione che è terza, c'è Milan e Inter prima. Anche se l'Inter ha perso oggi, peccato. Perso contro la Sampdoria 2-1. Ma scusami un attimino, ma il campionato sta per iniziare? Sta per iniziare? Tieni la linea, come fai tu? Ma dico, quanto tempo sono che è ricominciato? Non si ferma più adesso, non si ferma perché erano fermi per il Covid, capito? Stato sospeso il campionato, quindi stanno giocando partite il mercoledì di campionato, mercoledì di coppa, sabato la domenica, stanno giocando in continuazione. Secondo me non è così. La Juve è sempre cioè molte volte parte a scoppio ritardato e poi magari le cose cambiano. Sì, vabbè, il campionato è bello, anche quest'anno è bello perché le squadre, non c'è solo la Juve, sempre prima, 9 anni, cazzo, l'ha dominato, basta. Adesso comunque se la sta giocando, no? C'è anche la Champions, mentre l'Inter fuori la Champions. Tutti gli altri sono fuori dalla Champions, quindi la Juve c'è Coppa Italia, campionato, Champions League, c'è un sacco di cose da giocare, quindi vogliamo, faccia quello che vogliono, ma passiamo. Scappa, vabbè, piano piano già ci si riesce. Sì, sto parlando di Baggiungà, di Giuliani. Scappa. Ah, chissà come... Quando è fatto come ti esci lo microfono? Cazzo, c'è un buco cibano, fini più, cazzo, buco. Juventino? Cosa? Mario, Juventino? Ehi, oddio, se non c'è Juventino per entrare, no? Addirittura! Ma Juventino, come mai? Ma siamo sportivi tutti e due, io le guardo tutte le partite, no? Non so come te li interessi, io. Ma che cos'è, ma... guardo tutto il calcio, mi piace, lo guardo tutto, non mi interessa, però io sono simpatizzante juventino, mi fa piacere seguire anche la mia squadra, ma le guardo tutte, e così è Mario, non c'è altro problema, è più juventino lui però, ma non è neanche interista, neanche milanista, no? E sceglie anche lui, io un po' di più, lui quando sono partito, lì c'è la partita a Sari, no, non è altro che un altro. Fatti bene. Ho detto, se non è Juventino non ne fa entrare in casa, tu di niente. Assolutamente, certo, Senato Calabria, al 41esimo, e invece al 18esimo Chiesa. Sì. Un po' consegna Zuzzo. Allora, qua dice, ti importa, tiri totali 12.000 e 8 la Juve, ti importa 5.000 e 2 la Juve, poi posso di palla 39 il Milan e 61 la Juve, poi passaggi 166 il Milan e 260 la Juve, poi precisione dei passaggi 83 il Milan per cento e l'85% la Juve, poi vabbè, i falli 4 pari, ammunizioni 0, espulsi, calcio d'angolo 4 il Milan e 3 la Juve. Sta giocando bene la Juve, sta giocando benissimo, non c'è da dire niente, però il Milan c'è una bella squadra, non ce n'è problema. Milan, uè, dove sei a fare i denti, Dullo? No, io l'ho accennato su internet e ho scritto Serie A oggi e mi dà risultati, no? Ehi, ehi, ehi, per carità, mamma mia, comunque c'è per scherzo però, come non mi lasci te la fa appunto la mano. Ma non la stufa, cazzo di guerra M, boh, che c'ho, strano. Facciamo la squadra da loro, il Milan, anche fino a passaggio questo. Vuol dire che quest'anno saranno loro, però non bisogna sopravvalutare la Juve pure. Anche loro già. Non sarà come gli altri anni, ma ci sta pure, dai. Una bella squadra. Come dico che sì, che mi ci riguarda. Ma regalo, c'è per dire un cinese, eh? No, qui c'è Correa, che sia un negretto con la Juve, del Milan. Vabbè, lo sai cosa è, la gira ne comincia a gira, verrà sempre un Berlusca, verrà. La minestra è sempre girata, però c'è sempre lui, lo zampino. Vediamo. Che sempre dice che l'ha venduta questo qua, non so, la società, però c'è sempre Berlusconi in mezzo, sta roba di Bressanome, cose strane. Manca Morata, che prima o poi ho finito. Manca Morata, meglio che Di Bara. Mazza che ne è varia. Poco da bere. Eia, stava già il suo rumore, sta rompito. Eia. Ehi, qua sono io. Dalla leva. Cazzo, come è proprio di nuovo, lo sai? Minchia. Rottura di balle, non se ne può più. Ma è proprio di nuovo, la mia. Ma come te sta storia di rubarlo? Domani riapre, poi mi sembra giovedì e venerdì. Ha messo un ragazzino fra lock delle balle. Fai con i video, eh! Eh, capa! si fa il freddo in Chipre? Oh, vabbè che quando io sono qua giù bisogna accendere per forza la stufa, però se io sono qua si sta bene qua, non viene a freddo. Quante camere è con la casa? 2. C'è una Vegito. Come? C'è una, c'è quello là. No, ma è fuori. Nella sala? Sì. Sciogliati, ci va qua. Non mando io, che qua. Questa è la cameretta, diciamo, mia. Qua c'è mia e Stefano, l'altra ci ha occupata l'altro. Ci vuole lì, sta bene lì comunque, non gliene frega niente. È un casino, via, per carità. Ah, ma lì già sta bene, c'è la stufa, però non invidia. Perciò. Qua c'è un po' di freddino, perché risulto, diciamo, vicino alla finestra, dai, non proprio di fronte, sono vicino, e la tengo aperta la finestra, dai. Lo facciamo, mi fanno letto, c'è anche qui. Ho un letto, c'è anche. Capito. C'è un pagato. E dove sei tu, era tua di testa? Sì, siamo qui e lui, adesso sono io, c'è la camera a ponte. Solo che, vabbè, dovrei fare una cosettina, so che mamma non mi dà l'ok. Comprare un armadio, dietro questo armadio qua c'ho un invito, no? Per poter mettere un armadio lì, e poi c'ho la camera mi diventa grande, posso fare tante altre cose qua. Ho capito, quindi quando c'era il tuo testo non c'era l'altro. Allora, quando c'era proprio il testo non avevo qua. Se no non me ne ricordo, boh, come cazzo avevo messo io e Stefano qua, Carletto mi sa non ce l'ha più, era già con un coso, mamma era in camera e quello dormiva fuori con il baggetto. Ma c'è una crocchetta, perché ce n'è piccola e grande di quelle cose lì. Sì, la mia è quella grande, una camera in più, dai. Sì, mi ricordo, perché dove abitavano i genitori di Michele, e quella è quella piccola. Dai, che mi impicciamo qua, riprendete. Non sono qua, sto aspettando che inizi il secondo tempo. Caffa. No, qua c'è abbastanza caldo, ci sta bene, la verità ti dico. Giù un po' meno, ma qua su si sta molto molto bene. Quanto paghi Antoni? 200? Di più? Di più di 200? Sì. Che c'è giù, cosa c'è? La cucina, la camera da letto su? Sì, sì. E se da voi così mi se no non te ne avete nessuno in casa. Che ladri, che ladri. Io che non te lo dica canto baga, se no canto bago, se no ti pongo le mani in capo. Ladri sono, ladri. Qua c'è uno in affitto al quarto piano. Come si dice? Al quarto piano. E mi sembra che paghi Marisa, sono tre camere grandi come la mia, uguale a questa, 95 metri quadri, 93 metri quadri, e paga 360 euro. Me la mia biglietta io subito. Allora, Roberto, appena non la potevi mettere, come fai? Ogni brucio noi due. L'antenna non la potevi mettere, non tu. E come fai a mettere l'antenna? Dove la metti? Sul tuo palo. Sul mio palo, che cosa avete usato? Gian Maria, dove la buona mia Maria Mao? No, non si possono mettere. Ti avrei crepato la radio. Assolutamente, non si può fare una cosa del genere. Non si può trasmettere così vicino, lascia a parte. Assolutamente. È stato un casino, era stato, non si poteva fare. Ma anche vicini mi. Adesso cade in un palazzo e tu nell'altro, è un casino lo stesso, se lui sta sempre nel canale suo, a parte lo dovrebbe attenuare, se no è proprio un casino. Ma è il caso che magari per sbaglio aggancia l'amplificatore, ti sciogli il burucavo dell'antenna. No, il problema è che ci spacchiamo a vicenda poi, è un macello, vabbè di quei problemi, sarà stato un palazzo differente, non ce ne erano stati perché generalmente parliamo sempre qua, quindi non siamo ibriati. Più su ce n'è, sempre lì in quelle case popolari, quella a Mantova, no, non so se sia Mantova, cosa è, in quelle case rosse. Sono case popolari quelle, dove sono cooperative come questa, case popolari sono solo su via Meis, via Roma facciano tutte cooperative, c'è la Progarage, l'altra, non ricordo, sì, è una stella quella, una super stella. Lì abitava, guarda, non parlavamo di tanti. Poi con i goi mi migliava, si è soffatta, ci ha voluto tutto. Capito, no? È pericoloso, tu. Sto dicendo che ha bruciato la radio a Antonio Reventi. Ma di voi ha pure due appena attaccati, lui si ne ha fatto sopra. Se l'ha voluto appena, mi trovo io. Che stava piovendo, ho sentito la radio, tu vai in giro ci vado qui, passa poi mi devo lasciare qui giù al corso, altro sto arrivando, è passato, io mi sono accorto, c'era un amplificatore attaccato, e mi ha detto mica sono giù, e io ho schiacciato, sto scendendo, come sono sceso e era di due fumo. Addirittura. Manco fino alla ricezione li vuoi fare. Mi sono chinato, ma se si difende, ho trovato un archino, non riesco a comprendere che c'è trovato, ho messo il naso, ancora, c'è la china piena di un fuoco, allora se tu mi hai bruciato. E come cavolo avete fatto poi? Guarda, mi ha raccolto, ne ho lavorato un altro io, ho lavorato una FM 500 e se la mettere in macchina, ce l'ho messo a quello. L'ho disintegrato, anche io, e si è trovato, almeno mi è entrato un chilo, va, per poi sotto casa, mi dico. Ah, che subizio, va bene. Io? Io col tiro alle 9.22, al 4.40 e al 4.30 l'ho sempre attaccato, altro. Io mi volevo in città con 7, 800, 900, anche 1000. Nel letto, ci metti due, tre bottiglie d'acqua calda, c'è quanto lo scalda. E io dico nel letto, se c'è magari capitato, non so, a me io molte volte l'ho fatto, soprattutto quando lo stavo male. Due, tre bottiglie d'acqua dentro, a voi, e sono ti cazzi. Si vede fuggente. Cosa? Ti si apre la pulla, lo vedi fuggente. Non si può mai aprire la bottiglia, cazzo. Perché tu caro, non l'hai mai fatto? C'ho la termocoperta, ma non accendiamo mai perché c'è un caso d'amore. Tu mi aggancio qua dentro, c'ho la fuggibola abbassata alla finestra aperta. E ci siamo 23 gradi, quasi 24 gradi. Non c'è il caldo che c'è la notte, non si può fare. Io prima parto col pigiama e poi me lo tolgo. Me lo tolgo perché abbiamo la trappola. Ah vabbè, anche da Marina. Anche da Marina ci sta. E tipo dopo pranzo abbiamo attaccato la quella che scalda, diciamo, quella lì. È iniziata a scaldare e poi abbiamo staccato che c'era troppo caldo. Secondo tempo. Sai cosa abita Carbonazzi? Oh Giulia! Ma non te lo sto dicendo scherzando, guarda, qua eravamo in sei. In sei, c'ero io, Sfogliato, Daniela, l'Antonio lo si ricorda, Menati, sono tutti spariti, tutti bugini giù. Cappa. Problema lo sai cosa era? Se ti appavi uno pazzo quanto te, lì era stato un problema. Che pazzo quanto me, io non gli c'è un pazzo. Io c'avevo il 430, non volevo la 430, poi cambio volevo piano a barra e tac, attaccavo il tiro del 922, non volevo così, ora mi veniva di tutti la vecchia. Massimo, scale sono 500 watt massimo che può reggere, poi dopo ci sciogli tutto, ma sto parlando proprio massimo. Insomma, io c'ho un impianto fatto apposta, anche la comunicazione tutta elettronica, infatti non lo voglio togliere il comandatore lassù perché mi può servire, se no ho ripaccato il comandatore lassù, quello professionale, americano, dell'America, ma non l'avrei messo giù, ma non mi ha più tenuto. Baracchini rimangono lì, ci arriva qui, quando vuoi attaccare un baracchino, metto la prolunga e lo attacco, gli sto portando le occhiette, capito? Tutto qua, cappa di rocchio e cappa gatta, io, ma gli fai un po' segna, tu mi fai segna, sono Ronaldo, veramente, sono Ronaldo, sono Ronaldo, chiesa, chiesa, e siamo andati a Meccia. Se ne andà a Gigi, se ne andà. Io sto chiedendo sempre quello là, sto chiedendo il capo. Se lo porta a Fusaro me lo piglio. Come si chiama? Quello grigio. E io a Giacciolano. Giacciolano. Ciolano, Ciolano. Chiedilo che Giacciolano. No, mi ha detto che l'ha finito. Vabbè, l'avrà ordinato. Lo spero, dice che l'ordinava quel cavo lì. Non so se è anche più resistenza, però mi ha detto che la perdita è zero. L'avrà ordinato. Sicuramente, ha detto che l'ordinava a inizio anno, mi ha detto. Questo ce ne sono 5 metri e non dovrebbe per avere delle perdite di chissà quanto. Sì, sono 5 metri, ma va bene. Ma però non ho capito una cosa, se quello grigio tiene di più di watt pure. Quello grigio l'H100 mi sembra, boh, non mi ricordo una cosa. Io non l'ho mai comprato, io ho comprato l'H1000, boh. Una volta solo 50 metri, basta. Secondo me è fine. Fine, è grosso quanto il 213. Il 213. Il 213 è grosso. È grosso. Il minimo più o meno come il 213. Ho capito. Sto prendendo, cioè voglio prendere quello lì, dice che è buono, che regge un bel. Ed è a bassissimo, cioè perdita è zero. Quello lì devi prendere tu, una decina di metri di quello. Una cosa 10 metri, sempre 5 metri, mi basta, va a salire su acqua, mi basta, se io qua nel radio. Quello lì metti. Sono la dama, non penso che abbia questa grossa perdita però, questo è 58, cosa perderà? Boh. 5-6%, no, non lo so. Non ne hai perdita con quello 58, sono 5 metri. Infatti. Infatti non ho capito. Ma volevo mettere quello lì perché mi pare che resistesse anche un po' di più. Ma perché vuoi mettere quello lì? Perché me l'hanno consigliato. L'ho consigliato anche io, ma se devi attaccare magari qualcosa lì, però hai meno perdita, già va bene. Scappa, così mi hanno detto, ma non lo so, vediamo un po'. Sicuramente la differenza si vedrà. Allora va, rimane ghiccio da voi. Io voglio essere su. Anche se ce l'avessi non ha più sta sopra la gabbicciuria. Ma ho già di Mafuti, ma lascia fare tutto così. Papà. Anche perché bisogna stare attenti qua che è spioventa, non si sa mai se fare io su. Ma vabbè, già fino a un certo punto ci arrivo, poi già. Una volta che sei in piedi dopo già non succede più niente. Così sempre facendo acqua. Devo stare molto attenti però, di non fare. Cioè, bisogna ci vuole più attenzione, perché il tetto è fatto un po' in spiovenza, quindi. Ma va bene, qua al gennaio passi. E allora? E ce la fai a entrare? Sì, la misura giusta. Certo, guarda, io ho lasciato tutto così com'è, tutto. Ho fatto i bimbi già roba lo stesso. Papà, praticamente c'è il condizionatore, capito? Io l'ho attaccata nella staffa del condizionatore, ho fatto i buchi, tutto quanto, me l'ho messa lì. E che quel, chissà se fosse davvero, chissà non ne ha lampi, manca cannonata ne ha butti con la staffa del condizionatore. Si è piazzata bene. Ha giù provato mi a punirmi sopra. Manco, è bello grosso il ferro. Sì, io ho visto la foto come attaccata. E poi gli ho messo quella placca per tenerla sempre bene, capito? Sì, l'ho visto. Travaglio. Ho detto no, più su non ci voglio salire, l'attacco lì, grazie a Dio ce l'ho. Io pure ho montato questa, quella l'ho tolta, per carità. Ce l'ho quasi 2 mesi, ce l'ho su. Ha fatto quelle rapiche forti, ti ricordi? È sempre in chivia. C'è un altro pezzo di tubo anche. Capito. Hai un altro pezzo di tubo anche. Sì. Allora. Ce l'ho di giù. Allora, praticamente uno ti dà giù il sbocco 30 l'antenna. Io ho messo quei cose che mi ha dato Fusaro. L'ho attaccata a quel tubo e va bene così, sembra poi che è alta già, di più non voglio alzare, la verità non voglio alzare, mi è sufficiente così, mi è sufficiente, se voglio metterla in alto allora devo prendere le staffe e andare al centro tetto e metterla lì. Ehi, arrivo a un casino, ma la certo di già va bene. Tu, a me mi va benissimo, non bene no, di più. Ma allora, la sua prima sigaretta. Sì, già. Positivo, camarò, ci va a te, dai, gara. Che regala. Di domani, Don Raffaele. Allora, 24% Antu, poi ci sono 8 gradi, 2 gradi, aspetta, sì, no, 2 gradi, minchia, e domani hanno messo 24% di pioggia, invece venerdì 58%, sabato piove di brutto, domenica lo stesso, lunedì, martedì 24%, però lunedì 49%, diciamo la metà, là, 50% quasi. Adesso andiamo bene. Sto bene adesso, caro, non posso dire più freddo, assolutamente. Alla grande. Non mi interessa, ma che poi magari la cena c'è troppo caldo, me la fottuta. Poi come ventilazione, un ventilatore bello veramente, guarda, è micidiale. Ha 5 pale, invece di averne 3, il classico ventilatore, col telecomando. Ma sai che ci sono delle notti, lo spengo che mi manda troppo freddo. Cioè non troppo fresco mi manda. Poi c'ha l'autospegnimento, io adesso metto 1 ora, 2 ore e si spegne da solo. Va bene. Dove avete fatto Federico Chiesa? 2-1 Juve. Segnato. Allora, doppietta di Federico Chiesa. Che fine aveva fatto? Minchia, cazzo, sto fatta di questo, cazzo, ha tutta una bitta all'incrocio che fare, ma come sarà? Bravo. Grande giocatore Federico Chiesa, ha fatto un bel acquisto per la Juventus, per la Fiorentina. C'era una pizza annunciante, ma con la Fiorentina era micidiale lo stesso. meglio che ci siano giocatori italiani, che siano in voce, perché stava andando e non ci stavano trovando più, tutti stranieri. Si è fatto male anche fuori chiesa, dentro McKenny e quello bruciato, quello fresco. Fresco anda. Chi tu capita la Juventus, quello fresco ci diciamo, ma un culo allucinante, ma non ce ne ha mai parlato. Si chiama culo fresco. Culo fresco. Culo fresco va. Oddio, c'è solo lì, c'è culo fresco. Quando il cazzo ne è uscito? Sì, bella Juve oggi, non me l'aspettavo che avesse questo approccio con la capolista. Bella Juve. Bella, sta giocando molto bene. Sì, ma la gente va a Romina, sta da pareggiare. Boh, non lo so. Se vince oggi è terza, Milan, Inter, Juventus. Scappa. Meglio così. Gli scontri diretti devi vincere. Quando vinci gli scontri diretti gli altri sono più facili. Capito? Vediamo. Anche un anno ora, aveva 16 punti dalla prima e in 8 partite aveva pigliato un bel all'Inter la prima. Aveva 16 punti dall'Inter. In 8 partite all'Inter ne ha pigliato 18 punti. Ah, e tu? No, 24, 3 per 8, 24, sì sì, 24 punti, infatti ha vinto con 3 giornate di anticipo al campionato. Buono, buono, ma chi si cazzone di Napoli che si vantano tanto, in che classifica sono, quarti o quinti? E lì è, quarto o quinta, ma ha perso in casa il Napoli. Che gente guasta che... Ha incontrato lo stadio Armando Maradona. Bene, bello oggi. Vabbè, comunque, alla fin fine, è un loro idolo. Hanno fatto anche bene alla fin fine. Mamma mia, ragazzi, un 3-1, non sei scomì. Chi ha due? Tagliarà con la mano, cazzo all'angolo, non so come cazzo l'abbia presa. Hai visto? Sta giocando bene la Juve, minchia, sta giocando molto bene. Se qua vai uscire, e vabbè, c'è un allenatore che non ha molta esperienza ancora, però vedrai che al prossimo anno competitivo Pirlo. Chissà Juve, non bisogna mai sopravvalutarlo, ricordatelo. Anche un bel di voci iniziano i gusti, appena bisogna sempre essere. Poi cominciano a fare i pensieri degli altri. Vediamo. Mi lancio un po' allenatore Pioli, cazzo, c'è un'esperienza micidiale, cioè. Lo so, però ancora il campionato è lungo, non c'è da sopravvalutare. Sì, non è ancora un po' che gli ho giocato. È che sono franchi, stanno... la Juve ha giocato domenica, oggi è mercoledì, dimmi. Ma veramente, non si stanno fermando più. O a truppo o a nuda ne fatto. Ma sono pagati, sono pagati, a voglia. Sì, io lì sono pagati. Sì, ma perché c'è stato il fermo al campionato, capito? Quindi devono recuperare. Poi ci sono società che stanno soffrendo molto. Stanno soffrendo senza come si dice? Incassa, capito? La Juve c'ha il campo suo, quindi l'incasso è suo, l'Inter, il Milan, cioè stanno perdendo un sacco di quattrini, hai capito? Lo so, lo so. perso, hanno perso, stanno continuando a perdere i quattrini, perché non c'è pubblico, lo so, quindi no, un bel. Ma non solo le squadre, no, tanti cosi, tanti negozi, bar, tiche ballacche. Comunque c'è la strada più grande d'Italia, c'è il ristorante, albergo, puoi dormire, mangiare, bar, c'è di tutto, è tutto chiuso, quindi immaginate tu, con i cassi di 16, 18, 18 milioni, come fai? Come la Juve, il Milan, l'Inter, tutti quelli che hanno lo stadio suo. Beh certo, e l'altro l'hanno pure io, sono vita il Paltac. Sentiamo, dai, io adesso mi addormento perché faccio pure un po' di sonno. Buonanotte a tutti, ciao ciao. Ciao ciao a te, a domani dai. Yeah, mi ha fatto piacere, dai, almeno abbiamo fatto un po' di chiacchiere. Ciao ciao, buonanotte. Ciao ciao, io sono qua io. Ciao, mi raccomando, poi di abbedivare dentro i botti. Ma non c'è serrato. Hanno ammonito un giocatore della Juve. Ehi, vabbè, sono diffidato, non succede niente. Ecco, sta bloccato un giocatore del Milan. Mi un pareggio. Mamma mia. Se pareggia va bene, hanno giocato bene tutti e due, però la Juve sta pressando forte. Sì, comunque la mia questa non è forte. Forte. Prima con lo spray, là. C'ho il naso un po' chiuso, cazzo, dove la porta di spray devo buttare. Mamma mia, c'è un po' di male. E lui a me, adesso ne prendo una bustina. pallettone che gli ha dato. 3-1. 3-1, 3-1. Non ce la fa più il Milan, 3-1. Bella azione però, eh. Allora c'è un po' in ritardo qua, questa qua. 3-1 ha fatto. Bella azione. Bella azione. McKenny, bel gol anche questo. Bella azione. Cazzo, non me lo sarei mai inchiodato. Mai ci avrei pensato, avesse fatto una partita leggera la Juve col Milan. Sta giocando bene. Ma è ancora sotto comunque la Juve, un po' sotto, Dove? Sotto dove? Che posto è la Juve? Quarto posto mi sa. Ha perso adesso, perché l'Inter ha perso. Milan, Inter e Juventus. Se no la quarta. 6 punti dalla prima. Prima era 9. Ma questa è una bella battuta per il Milan, stai giocando in casa però, attenzione. Cioè, vabbè, ho fatto dei cambi micidiali, Pirlo, cazzo, ho fatto dei cambi micidiali. Intanto, McKenny e Kulusevski è cambiata totalmente la partita. Vabbè. Queste squadre sono uscite. Ho visto l'Inter, ha fatto G, era un grottone, vabbè, grottone ultimo in classifica, ha fatto G e oggi ha perso con la Sampdoria, 2-1 con la Sampdoria, non è che sia questa grande squadra, però sono giornate no. Questo voglio di Maldini è entrato. Cioè il Durassi sta per finire. È 80esimo. Non è quanto va di recupero. Sta lavorando in ferie, ha toccato due palle, la botta, ragazzi. Del 2002 c'è Bizzino. Certo, del 2002. Minchia, gli altri c'è in Serie A. Del 2002, siamo nel 2018. 18 anni, 19 anni ha qua, sì. Come la metto di euro prende? Ha vinto 9 anni, giù giù. Ma giù mai. Diciamo adesso Kulusevski. Cosa? Quanti diciamo adesso Kulusevski? Kulusevski. Ha fatto il nome. Per il piatto finita 3-1 bravo Marie, io ti saluto, spengo tutto e ci accoppiamo domani. Ehi, ciao cavolo, buonanotte domani, ciao ciao ciao.